Cioè, non basta Milan Alessandro, non basta il Milan, quello là, i rossoneri, no, altri 100 Milan, uno nessuno, 100 Milan, ma troppo Milan. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, eccoci alle 9-8 minuti in punto, siamo pronti con una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan fino alle 11. Potete anche nel 2020 mandare le vostre presigle come quella straordinaria del nostro ascoltatore, le mandate in audio al 349-238-6666, noi le ascoltiamo, promesso, è il lavoro di Lorenzo Nespoli, se no non viene pagato per questo, e poi le migliori a nostro insindacabile giudizio le mandiamo in onda. Saluto insieme a Lorenzo la nostra redazione, l'Alpino mi scruta e mi guarda con sguardo severo, non è mai cambiato anche con l'anno nuovo, vita vecchia, in regia Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, ci siamo con voi, con Leonardo Lentopede Manera che è in arrivo, oggi c'è, questa forse è la novità dell'anno, c'è spesso Leonardo Manera. Allora, parleremo di tante cose oggi, eh? Andremo a capire che paese è quello che attacca le ambulanze, succede questo, non solo a Napoli, ma in particolare a Napoli, pare, ma ci occuperemo anche di quello che succede in Australia con gli incendi, ci occuperemo di burocrazia, e insomma, il menù come al solito è ricco. 800 24 0024 è il numero magico per chiamarci, per dire la vostra. Enthusiasm about the future. Sono svegliato stamattina, Ale, c'è la Shigera a Milano, è tornata la nebbia, pare che tra l'altro qualcuno, ho visto qualche articolo sui giornali, esulti, c'è una buona notizia almeno, è tornata la nebbia, negli anni scorsi era scomparsa la nebbia, adesso è tornata la nebbia, quel bel nebbiun che non si vede a un metro, bisogna stare attenti, o è smog. Miriam Lucchetti mi dice guarda che forse è inquinamento, perché pare che la pianura padana, Milano in testa, ma anche Torino, Venezia siano sotto l'attacco dell'inquinamento. Vi prego solo non fate i blocchi delle auto, queste cose inutili, queste cose, questi palliativi perché così si mettono la coscienza a posto, perché sì, lo dice una legge, le polveri sottili, eccetera. Spero solo di non creare che non si creino ulteriori problemi ai cittadini. Cioè, invece di controllare magari i riscaldamenti delle case, bloccare le auto, che è la cosa più semplice e più sbagliata, insomma, si sa, non serve a nulla. Però, mi sono svegliato con questo pensiero. Ale, c'è la nebbia, oddio, magari è smog e ci bloccano anche le auto. Speriamo di no. Vedremo quello che succede. Allora, noi abbiamo tante cose da raccontare, cose italiane. Sullo sfondo rimane l'attualità internazionale. Sapete, seguite Radio 24. Abbiamo sentito anche poco fa Barbara Schiavulli da Baghdad. Ma comunque state con noi perché sono momenti di grande tensione internazionale. Io non lo so come andrà a finire. Ieri sono arrivato a casa, la mia portinaia mi ha detto: ma c'è la mia Filippina, ma scatta guerra Iran? E io l'ho guardata e gli ho detto: intanto, ma perché chiede a me? Cioè, sì, vabbè, faccio il giornalista, ma cosa ne so io se scatta la terza guerra mondiale, cara Yumi? Non posso saperlo, insomma, mi auguro di no, spero di no. Una cosa però, un pensiero, ma questo non l'ho detto alla povera Yumi, che non era lì per capire questo. Un pensiero però ce l'ho chiaro e l'ho capito. E cioè che non contiamo niente. No, noi italiani contiamo sempre meno. O non voglio fare il nostalgico trombone o rimpiangere Andreotti e la sua politica col Medio Oriente, Craxi che teneva testa agli americani a Sigonella, perfino Berlusconi che sì, con la sua grandeur, però faceva due chiamate e faceva i G8 e metteva Putin e Bush a parlare. Cioè, no, non voglio arrivare a questo e non lo farò. Però, oggi ho letto il pezzo di Mattia Feltri in prima pagina della Stampa e devo dire che come sempre mi ritrovo in quello che lui scrive. Allora, leggo dall'articolo Le inutili fatiche di Di Maio di Mattia Feltri. La foto di Luigi Di Maio all'aeroporto di Madrid con fidanzata, sneakers e barba incolta, mentre il mondo si infiamma a sua insaputa, sarà non soltanto il ritratto di un ministro al meglio delle sue possibilità, ma di un intero governo, per come fu messo in piedi e ci sta, purché ci stesse e ci resti. Potremmo dire, noi l'avevamo detto, qualche milione di noi, quanto ci apparisse imprudente e strampalato affidare il Ministero degli Esteri a uno che un anno fa chiamava Mr. Ping, il presidente cinese Xi Jinping, per non dire di Augusto Pinochet traslocato in Venezuela. E poi scrive Feltri, ma tenetevi forte, sentite questa, a novembre Di Maio incontra Villa Madama Sergei Viktorovich Lavrov, ministro degli esteri russo. Curriculum di Di Maio. Vabbè, lo sapete. Curriculum di Lavrov. Laurea in relazioni internazionali. A 24 anni inviato diplomatico sovietico in Sri Lanka. A 26 arruolato al ministero degli esteri. A 31 consigliere sovietico all'ONU. Per 7 volte presidente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Vice ministro agli esteri con Yeltsin. Da quasi 16 anni ministro agli esteri di Putin. Dunque si incontrano. C'è parecchio di cui parlare. La Russia, la Libia, l'impeachment per Trump. Eppure Di Maio ottiene di aprire la conferenza stampa e informa la comunità internazionale del suo grande successo diplomatico. Forse, ma forse, si toglieranno le sanzioni sul parmigiano reggiano. Un'impercettibile increspatura piega il volto metallico di Lavrov, ma Di Maio cavalca l'entusiasmo, particolareggia il colpo di genio geogastronomico partorito sulla quantità di lattosio nei latticini freschi e in quelli stagionali, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ancora scrive Feltri, non ci si poté credere una ventina di giorni fa quando Di Maio è stato ricevuto in Libia da al-Sarraj, il presidente riconosciuto dalla comunità internazionale. Era ben contento Sarraj, sperava di raccattare qualcosa, siccome il suo nemico Haftar ha appoggiato appoggi dai francesi, russi, dagli emirati, dagli egiziani. E invece Di Maio gli offrì dialogo, mediazione, nemmeno due fucili. Poi vide Haftar e gli disse le stesse cose. E per Haftar fu meglio di una sviolinata, si affrettò a comunicare al pianeta che Di Maio era proprio un bravo giovane. Capito che capolavoro, Sarraj ha subito salutato l'Italia e aperto i confini a Erdogan della Turchia. E la missione europea a Tripoli, prevista per ieri e a guida a petto vanamente in fuori di Di Maio, è saltata per manifesta inutilità. E ancora, poi sembra di infierire, scrive Feltri, la competenza di Di Maio sugli affari internazionali è ormai rinomata oltre confine, dagli antichi amoreggiamenti con Putin, a quelli coi cinesi sul 5G, al sostegno in solitaria globale a Nicolas Maduro in Venezuela, agli incontri coi gilet gialli tendenza Christophe Chalençon, uno che incitava i militari francesi a entrare nell'Eliseo e buttare dalla finestra Macron. Così ora a Roma ci si chiede perché il segretario di Stato americano Mike Pompeo non ci abbia avvertito del raid per far fuori il generale iraniano Soleimani. E chissà, magari la risposta sta nel fatto che l'ultima volta in cui si sono visti, Pompeo si è sentito chiamare da Di Maio Mr. Ross. Insomma, il timore è che la credibilità sia quella. Vabbè, la credibilità è tale per cui, come rimpiango la mia vecchia rassegna stampa, non mi sveglio alle 5, questo no, ringrazio Simone Spezia per svegliarsi lui, credo alle 4 e mezza invece che alle 5 mie, perché lui insomma, è più bravo di me e quindi si prepara meglio, ma se ci fosse stata la rassegna stampa mia vecchia, col vecchio grido di battaglia, e avessi guardato i giornali oggi, osservando, come dire, le paginate dedicate con tanto di interviste da parte di giornalisti fondamentali come Francesco Merlo su Repubblica, paginate di interviste a Rita Pavone e, per trascurare il caso Rula Gebreal, che abbiamo trascurato adesso, ma due giorni fa era su tutti i giornali e tornerà, sulla questione Rula Gebreal e Rita Pavone a Sanremo. Beh, se facessi ancora la vecchia rassegna stampa, si alzerebbe l'urlo di ma battaglia. Chi se ne frega, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega. La carta costa, che oggi a metterla insieme da tutti i giornali si arriva a 3-4 chili di carta, 3-4 chili di carta. Allora, questo è un paese in cui incredibilmente succede anche, ne avevamo già parlato in passato, ma pare che sotto Capodanno gli attacchi siano aumentati, succede che qualcuno decida anche di sequestrare le ambulanze, assaltare le ambulanze. A Milano è successo anche di peggio, in via Gola, dove c'è un fortino quasi inespugnabile della droga, a Capodanno hanno attaccato i vigili del fuoco che stavano facendo il loro lavoro di spegnere l'incendio. Cioè, io non so entrare nella testa di chi può fare questo. Comunque, forse ci può aiutare da Napoli il medico del 118 della AS Napoli 1 Centro, è referente sindacale e anche membro di un'associazione che si chiama Nessuno Tocchi Ippocrate, Gian Piero Fusco. Dottor Fusco, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie di questa opportunità. No, grazie a lei. Io non so entrare nella testa, come ho detto, di chi può fare questo tipo di azioni. Magari lei, che qualche esperienza ne ha in più di attacchi, ci può dire qualcosa. Certo, allora innanzitutto le spiego, non è una novità per noi, di questa gravità è una novità. Nei primi 7 giorni dell'anno abbiamo avuto una bomba carta sotto un'ambulanza, la cui esplosione ha provocato un danno acustico permanente a un mio collega che oggi inizia le cure in terapia iperbarica, quindi si figura. Sì, ho sentito che ha perso il 50% dell'udito. Al momento sì. Poi c'è stata una bottigliata in faccia da parte di un paziente ad una collega in un pronto soccorso e non ultimo quello che citava lei, addirittura il sequestro dell'ambulanza con tutto l'equipaggio, sì, tra l'altro per una sciocchezza, a prescindere che non è una cosa accettabile, però comunque per farle capire il livello a cui siamo arrivati. Cioè, ci spieghi cosa vuol dire il sequestro? Sì. Cioè, qualcuno che ha incrociato un'ambulanza e ha detto dovete venire con me. Ma non in questi termini così educati, sì, come chiaro, ha detto lei. Chiaro, un chiaro gruppone di 10-15 persone sono entrati nell'ospedale Loreto Mare e hanno costretto autista, infermiere e il collega a seguirli, diciamo tra virgolette a seguirli, e li hanno portato in una zona, in una stradina di un quartiere vicino allo stesso ospedale Loreto Mare, dove c'era una persona che aveva una semplice distorsione di ginocchio, manco a dire un codice rosso, un'imminenza di pericolo di vita che sì potesse giustificare tutta questa agitazione, ma per farle capire il livello a cui siamo arrivati. Però mi premeva dire una cosa importante, non sono delle novità, diciamo che adesso la cosa sta peggiorando. L'anno scorso noi abbiamo avuto oltre 100 aggressioni. E io volevo entrare nel merito sull'iniziativa delle telecamere. Allora, esatto, infatti glielo volevo chiedere, perché il ministro Lamorgese ha detto sì, metteremo le telecamere. Le dico che non sono sufficienti. Le spiego. Il mio direttore, il mio primario, il dottore Galano, ma anche il direttore generale della mia ASL, hanno inondato chi di dovere di richieste di maggiore personale, di maggiori veicoli, di maggiori ambulanze, di maggiori presidi. Non è che con le telecamere risolvo il problema. Noi dobbiamo, pensi che nella città di Napoli, che conta 960.000 abitanti, quindi quasi 1 milione di persone, escluso chi viene dalla provincia e i non residenti registrati, ci sono in questo momento in servizio 13 ambulanze medicalizzate, di cui una è a Capri e un'altra serve esclusivamente alla zona della ferrovia, sì, di Piazza Garibaldi, sì, per ovvi motivi di maggiore presenza, eccetera. Allora, le pare possibile che con questo numero così esiguo di medicalizzate noi possiamo gestire 1 milione di persone? E che persone poi? No, infatti devo dire, dottor Fusco, a volte io, se ho capito bene, esplode una sorta di rabbia perché arrivano le chiamate arrivate in ritardo e quindi lì, nella situazione di tensione. Napoli c'ha la peggiore tempistica di intervento, che sono circa 20 minuti, cioè è praticamente inutile, è un servizio taxi praticamente, non è un servizio di emergenza. Su questo noi dobbiamo lavorare. Allora sarebbe opportuno che chi di dovere ascoltasse chi è a conoscenza del problema, ovvero i nostri dirigenti, per risolvere il problema. Il problema si può risolvere, c'è la soluzione. Dobbiamo aumentare le forze in campo, dobbiamo spiegare alle persone che il 118 è un servizio che serve per le emergenze, non serve per bypassare le liste d'attesa, per le visite di cortesia, per accelerare le cose, per cose di bassa gravità, dove ci sono altri colleghi ben più validi di noi che possono risolvere il problema. Questo bisogna spiegare alle persone, e allora si può fare veramente il servizio emergenza. Se io mi presento con delle telecamere con la mia ambulanza in uno dei quartieri tra virgolette degradati di Napoli, secondo lei queste telecamere che fine fanno? No, ma infatti questo è il tema. Guardi, allora, ieri quando ne parliamo quando ne parlavamo in redazione, aspetti Fusco, dicevamo proprio questo quando ne parlavamo in redazione, a dire: ma uno mette le telecamere, ma se uno vuole assaltare un'ambulanza, se questa la prima cosa che fa spacca le telecamere, Allora metti che io vado a fare un intervento alle 3 del mattino, alle 4 del mattino in uno dei quartieri difficili della città, non voglio fare nomi per non fare discriminazione. Noi abbiamo difficoltà e abbiamo paura che ci levano le borse alla bombola di ossigeno. Secondo lei le telecamere? Ma la cosa più semplice da fare, anche nel più sperduto villaggio dell'Amazzonia, si ascoltano gli attori del problema. Arriva, ma poi sono sbagliati anche i calcoli. Noi non abbiamo mai avuto 39 ambulanze. Magari avessimo avuto 39 ambulanze. Allora, bisogna ascoltare, per piacere, per pietà. Aiutateci, ma ascoltateci, perché la soluzione ai problemi ce li abbiamo, basta che ci ascoltate e i problemi si possono risolvere. Allora, la soluzione di più mezzi, la soluzione di più mezzi è una soluzione concreta, ma allora io le do un'idea. Però lei tornando alla domanda prima, la prima domanda, ma lei è riuscito, siete mai riusciti a entrare nella testa di chi fa una falsa chiamata a Capodanno per buttare una bomba carta sotto un'ambulanza? No, ecco, un altro aspetto importante, guardi, che invece il Ministro della Sanità ha recepito. Noi dobbiamo essere elevati al rango di pubblici ufficiali, perché veda, quando noi veniamo aggrediti, eventuale un'azione di rivalsa contro l'eventuale presunto responsabile è a nostre specie, cioè è il collega aggredito, il quale teme ovviamente una ritorsione perché deve uscire allo scoperto, perché questa poi è gente chiaramente non dalla fedina penale pulita o comunque da una condotta civica apprezzabile, per cui si deve pagare l'avvocato, deve iniziare tutto un percorso per avere risultati chissà quando. Invece, come ha detto il ministro Speranza e qualche altro politico più illuminato, dobbiamo arrivare al ruolo di pubblico, cioè equiparare la figura del medico di emergenza e di pronto soccorso a quella di un poliziotto, per cui la denuncia parte d'ufficio e allora probabilmente una persona ci pensa due volte prima di insultare, aggredire o quant'altro, addirittura mettere una bomba sotto un'ambulanza. Allora, quindi aumentare il personale, veicoli, mezzi, presidi. Dobbiamo arrivare al ruolo di pubblici ufficiali. Mi parlava il ministro Speranza addirittura di farlo per decreto, che ben venga. Poi dobbiamo parlare con le persone, con i comitati civici e spiegare a che cosa serve. Sì, è chiaro che trasformarvi in pubblici ufficiali significa che è un'aggressione a voi, è un'aggressione aggravata. Non so quanto questo possa fermare. Sì, non so quanto questo possa fermare uno che ha l'intenzione di buttare una bomba. Anche i poliziotti, i pompieri, lo diceva lei, vengono. Sì, ma questa cosa la dobbiamo fermare. Dove vogliamo arrivare? Eh no, certo. Se no, leviamo il servizio, facciamo prima. No, certo, su questo sì. Guardi, io intanto la ringrazio, Giampiero Fusco, che fa parte dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che tiene conto delle aggressioni che ci sono ai medici a Napoli. Ripeto, anche per rispondere a uno che mi dice perché succede soprattutto al sud, l'emergenza adesso c'è a Napoli, ripeto, a Milano, a parte che è stata assaltata un'ambulanza anche a Milano, ma poi ripeto, la vicenda dei vigili del fuoco a Milano in via Gola è abbastanza emblematica, erano lì per spegnere un incendio a Capodanno, un incendio che rischiava anche di estendersi alle auto e andare fuori dal controllo, ed sono stati derisi, presi in giro e anche insultati e aggrediti i vigili del fuoco. Se c'è una figura amata da tutti e indiscussa è proprio quella, e invece questo è successo. Ma a proposito d'Italia, io so che ha pochi minuti perché deve incontrare una persona, non capisco perché è più importante di noi, credo il Papa, però e quindi lo dobbiamo liberare in pochi minuti, ma lo saluto con piacere, il presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei buongiorno. È in attesa di incontrare il Papa. Io sì. Sono all'udienza generale, sì. Poi devo incontrarlo perché dobbiamo consegnargli un omaggio. Allora, quando incontra il Papa, se ce lo passa per favore al telefono, facciamo lo scoop. Scherzo. Va bene, sindaco. In realtà io l'ho chiamata perché sa che qui spesso in redazione e in trasmissione chiamiamo Mauro Corona, dico sempre il mio scrittore preferito. E Mauro grande. Corona dice sempre una cosa: dice, parlate della montagna, la montagna che muore. Perché la burocrazia la affossa e non c'è la possibilità di fare anche una piccola attività commerciale. Allora ieri, quando ho visto che in una frazione di Longarone è scomparso l'ultimo Alimentari, punto di riferimento, perché i titolari dovevano mettere, credo, il registratore di cassa collegato all'Agenzia delle Entrate, tutto a regola, a norma, a burocrazia, appunto, hanno preferito chiudere. Questa è sicuramente una brutto colpo, una brutta notizia, un po' l'emblema di quello che sta attraversando la nostra montagna, ma non solo quella del momento, quella di tutto il nostro paese. Se cominciamo a far perdere servizi primari ai cittadini, ovviamente la montagna si spopola, si va verso la pianura, le grandi città, e ovviamente non viene più tutelata. Io devo dire che anche è accaduta la tempesta Vaia, ma la tempesta Vaia è sì. un piccolo esempio su come, se la montagna non è vissuta dalla gente di montagna, di tragedie così ce ne saranno, ovviamente dovute ai mutamenti climatici, sì. ma anche all'assenza delle persone che tutelano e vivono la montagna. Sì, per la precisione, la frazione di Podenzoi, no? Nel comune sì, questa è una piccola mia frazione di 250 abitanti. C'era un negozio, bar, purtroppo un bar. La signora l'ha chiuso 2-3 anni fa, adesso era rimasto questo negozio di generi alimentari che ha chiuso, nonostante io anche come comune ho messo a disposizione delle risorse per le nuove attività, per l'apertura di nuove attività commerciali e anche per la ristrutturazione di attività esistenti, ma non basta, perché c'è bisogno di un aiuto strutturale continuativo, non sì. limitato, diciamo così, all'una tanto. Devo dire che io sono stato in provincia di Bolzano e lì devo dire che da questo punto di vista sono molto più avanti, perché sostengono queste attività di vicinato e permettono alla montagna di vivere. Sì, lei dice forse c'è anche una rivendicazione di autonomia in questo, no, non so. Posso dirla in parte, sicuramente quella un po', però non è solo quella, è una questione anche di avere molte più risorse e di saperle anche utilizzare bene, quindi io sono anche, devo dire, posso fare anche i complimenti a chi, agli amministratori della provincia di Bolzano, che in questi anni hanno speso molto bene le risorse che hanno. È chiaro che se noi avessimo tutte le risorse che rimangono sul territorio potremmo fare moltissime cose, tra cui anche questa. Però devo dire che il problema della montagna deve essere atteso. Io ho incontrato anche il ministro Boccia, che l'ho visto molto attento a queste problematiche. Il 31 gennaio ha organizzato gli stati generali della montagna, in cui ci sarà proprio un confronto anche tra noi amministratori per cercare di portare avanti alcune proposte concrete per salvaguardare il più possibile questi territori, che sono un patrimonio inestimabile. A proposito di proposte, cioè, perché Mauro Corona dice così, leggi, il problema è che bisognerebbe in alcuni territori, lo so che lui può dirlo così, cioè togliere un po' di leggi, togliere la burocrazia. Io non sto dicendo che quell'alimentare di Podenzoi deve avere la possibilità di non collegarsi all'Agenzia delle Entrate, perché insomma siamo in Italia, come si può dire, dopo c'è l'evasione fiscale, eccetera. Però bisognerà trovare un modo per sburocratizzare in alcune zone, altrimenti uno quello che muore. Noi chiediamo, infatti, è vero, in parte risorse, però proprio anche questo, delle norme specifiche per la montagna che possono permetterci, non dico di bypassare le norme quelle generali, ma avere delle norme che possono facilitare la vita in montagna e soprattutto garantire quei servizi indispensabili per la gente per viverci. Che vuol dire però sgravi fiscali? O vuol dire... Sì, quella potrebbe essere. Noi abbiamo abbiamo preparato anche un documento in cui abbiamo intanto fatto un'analisi della situazione della popolazione. Noi perdiamo circa 1000 abitanti all'anno. Io le dico solo, il comune di Longarone quest'anno ha chiuso il 2019 con 25 nascite e 81 morti. E Longarone è una città, che è un piccolo paese, che dove ha una zona industriale che è la più grande della provincia di Belluno, abbiamo l'ente fiera, abbiamo sicuramente un comune non proprio di montagna ma ai piedi della montagna vivo, ma questi sono i numeri. Quindi se non abbiamo qualche, diciamo così, persona che viene da fuori, noi siamo in un continuo, ripeto, 1-3 il rapporto in questo momento tra nascite e morti in tutta la montagna, ma ripeto, non solo quella bellunese. Quindi certo, dobbiamo affrontare il problema. È arrivato il momento, secondo me, di prenderci carico di questo problema dello spopolamento della montagna e soprattutto cercare di trovare quelle che sono le soluzioni per questo. Ripeto, noi abbiamo delle proposte concrete che sono le infrastrutture, il portare la banda larga in tempi veloci, cioè anche questo è un problema, cioè non far arrivare la banda larga alla sua Podenzoi, anche questo ha una difficoltà anche di collegamento nella rete. Cioè, sono problemi, ripeto, che vanno affrontati in maniera seria e devo dire ora bisogna affrontarli molto concretamente. Sì. Sindaco, io la ringrazio, è anche presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, ci saluti il Papa e adesso che è in udienza generale da Longarone. La ringraziamo, sì, la vicenda che questa chiusura proprio di un alimentare a Podenzoi, frazione di Longarone, ci ha colpito proprio la terra di Mauro Corona, che spesso sentiamo vicino a Erto, Casso, le frazioni vicine alla diga del Vajont. Allora, saluto, si può dire tutto qui, chiamando all'800240024, dire la vostra, dire i pareri. Come dire, accolgo tutti, anche il parere intelligentissimo dell'ascoltatore che mi dice: sì, ma a parte la propaganda, tu sei disposto ad andare a combattere in Libia? Io, perché non c'è tra l'altro l'esercito, i soldati, quando mai, e speriamo di no, ci fosse una guerra, no? Io, Alessandro Milan, parto per la Libia, vado in Libia, se non sono pronto a imbracciare il fucile, le granate e a mettermi a capo di un carro armato per andare in Libia a combattere, non posso dire la mia, non lo so, forse è un nostalgico del colonialismo quando si partiva con D'Annunzio, andiamo in Libia. Pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. Eccoci qui, signori. Eccoci. Enthusiasm. Oh, Conte. Milan, ma c'è già il blocco delle auto. Torino, Alessandria, Euro 4 e se continua così anche Euro 5. Ma sono di Milano io, cara ascoltatrice, no, scusi l'egoismo, l'ho pensato su Milano. Scusate, ma non c'è un certo Presidente della Repubblica in Italia che ha messo il nostro Ministro degli Esteri che ha firmato il decreto con cui si faceva il governo? E adesso ci stupiamo di cosa? Ma... questa più che una rassegna stampa mi sembra una rassegnata stampa. Allora, a proposito di rassegnati, guardalo qui, Leonardo Manera, c'ha uno sciarpone, guarda che siamo in uno studio, non siamo all'aperto. Lo so, ma siccome tu e forse anche altri prima di te tengono sempre a temperatura polare qui dentro. Ah, questo sciarpone è una polemica, quindi. Non è una polemica, è che oggi c'è un freddo che non è un grigio che è non vero. Ricordavo da tempo qui a Milano. La scighiera. Ho letto poi che ci sono 7 milioni di italiani a letto con l'influenza. Sì. Io mi chiedo come mai non faccio parte di questa. Vorrei starmene a casa. Dai. Ho avuto altre forme fastidiose questi giorni. E invece ci sono 7 milioni di italiani che io invidio in questo momento, che sono a casa al calduccio sotto le coperte. Io invece sono qui in questo. Guarda che molti sono in ospedale perché becca forte l'influenza. Quindi, no, tu dici, la vuoi, ma a metà. No, da calduccio a casa. Da calduccio a casa, senza troppo mal di gola, senza troppo mal di testa. Vi invidio, voi che siete a casa con l'influenza. Ecco. Eccoci qua, tu comunque stai meglio, perché io ti ho visto un po' provato da queste ancora vacanze. Adesso ho avuto questo problema intestinale che tarda a risolversi. Bene, ti prego di entrare nei dettagli se vuoi. No, non voglio entrare nei dettagli perché grazie. So che dopo tu diresti va bene, come sei solito fare, va bene. Allora, dobbiamo, vedi, dico allora, andare in provincia di Roma, c'è Laura che ci ha chiamato all'800240024, eccoci Laura. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Allora, volevo provare a fare una piccola analisi dal mio punto di vista, dal mio vissuto, in pronto soccorso come medico pediatra, per 40 anni. Allora, a un certo punto è entrata la politica nell'ospedale, a cominciare dal direttore generale, e è stato lui a nominare i primari, è stato lui a nominare i medici, con contratti rinnovati anche ogni mese. Quindi tutto personale ricattabile. A un certo punto questi politici hanno cominciato a telefonare in pronto soccorso e a pretendere dai medici che trovassero posto per i loro amici. E vabbè, purtroppo, e questo, molto questo spesso purtroppo, questi amici sono... No, aspetti Milan. Purtroppo questi amici sono criminali, spacciatori. Questi spacciatori hanno imparato la strada che questi medici e questo personale era ricattabile. E hanno cominciato ad entrare in pronto soccorso con la prepotenza. Io devo dire che non ho mai avuto aggressioni in tanti anni, perché ho sempre mandato i politici, non mi sono mai avvalsa del loro aiuto, e stranamente la gente mi ha sempre rispettato. Però dice è la prepotenza quella che determina un po' la prepotenza e la politica. Dice che è la politica più che la prepotenza. Sì, la politica e la prepotenza che ne è conseguita. Insomma. Va bene, Laura, la ringraziamo. Rimanendo a Roma c'è Marco. Buongiorno Marco. Ciao, buongiorno. Io porto solamente l'esperienza che ho avuto a Genova, che sono stato a Genova per un periodo di tempo. E in Italia noi abbiamo una grande forza che sono i volontari. Circa 100 anni fa hanno creato le pubbliche assistenze, che erano semplicemente dei cittadini che prendevano le persone e le portavano in ospedale perché non c'era la possibilità di farlo o i mezzi. Ad oggi la Liguria ha mantenuto questa cosa, vuol dire che su Genova, solamente sul comune di Genova, ci sono 60 pubbliche assistenze, vuol dire che dalla chiamata per far venire l'ambulanza passano 2 minuti e mezzo, massimo 3. Sì. Perché? Perché è gestita solo e unicamente da volontari. I volontari sono formati dal 118, quindi che fa? La regione risparmia sul personale e investe sulle pubbliche assistenze. La cosa poi più bella è che quando le pubbliche assistenze ogni anno vanno, non so, a portare il calendario, i cittadini cacciano 20-30 euro perché sanno che è una risorsa per loro. Quindi è un qualcosa che funziona. Il 118 di Genova è il primo in Italia e c'è un risparmio economico non indifferente, ma solamente in Liguria è rimasto questo tipo di sistema. Quando io poi mi sono trasferito a Roma e ho cercato di in qualche maniera crearlo, sono stato ostacolato da cooperative, aziende ospedaliere, perché è un business interessante. Esatto, quindi lei dice una cosa che funziona in una realtà che lei voleva in qualche modo portare in un'altra realtà è stato sì, ma quando si va a toccare gli interessi, Marco, poi funziona sempre così, no? Ma il volontario poi funziona, cioè non è una cosa che dice adesso vediamo i volontari e li mettiamo a Napoli. No, è qualcosa che funziona perché ben formato il volontario di notte parte, prende l'ambulanza e va a prendere soccorso, perché poi il soccorso è questo: vado dalla persona, la prendo, la metto nell'ambulanza, la metto in sicurezza e la porto all'ospedale. È mai capitato qualche tipo di disavventura, diciamo così, qualche addirittura aggressione, Marco? Beh, c'è stato sicuramente, perché poi, non so, la notte può capitare che effettivamente una persona ubriaca o magari in questo, però non contento, cioè il fatto che io immagino a Napoli che c'è mio padre che si sente male, ha un infarto e l'ambulanza arriva dopo 20 minuti. Questo è il problema. No, ma infatti molte delle situazioni che degenerano sono legate a questo, cioè l'attesa del tempo, e quando poi arriva magari c'è una persona addirittura in pericolo di vita, è chiaro che la rabbia mista tutto porta a queste degenerazioni. Peggiorando però la situazione. Sì, peggiorando la situazione, anche perché ci ha spiegato il dottor Fusco che se i mezzi sono quelli, e cioè sono carenti dal punto di vista del numero, lo ammette lui stesso, arriviamo, è un servizio taxi più che un servizio ambulanza, 20 minuti di media è un disastro. Però ci sono poi invece state delle aggressioni immotivate, cioè assalti alle ambulanze, così per divertimento, cioè non so se vi rendete conto. Questo è, guarda che qua arrivano un po' di messaggi, caro Leonardo. Sei contento che quest'anno è bisestile, quindi si lavora un giorno in più? Ma per me è l'ultimo anno questo, l'anno prossimo io vado in pensione totalmente, mi ritiro, no, no, mi sono fatto fare i conti dall'Inps e l'anno prossimo mi ritiro completamente. Ecco, questa è già una notizia, sei riuscito a venire a capo della situazione intricata. Venuto a capo e anche se non avrei ancora requisiti comincio a ritirarmi l'anno prossimo. Quindi va bene. Questo per me è l'ultimo anno, mi ritiro e darò una svolta alla mia vita, andrò a vivere, che ne so, a Pessano con Bornago. Va bene, ma a Pessano o a Bornago? Lì a metà. A Con. Tra l'altro devo dire, moltissimi messaggi sono arrivati sulla montagna, ringrazio tutti gli ascoltatori, c'è scritto anche il presidente dell'Unione dei Piccoli, dei Comuni Montani, per raccontare come ci siano altre situazioni, adesso non solo quella di Podenzoi e Longarone dove è scomparso l'ultimo alimentari, ce ne sono tante di altre realtà, magari non è un giorno dobbiamo iniziare questa grande campagna a fianco di Mauro Corona, salviamo la montagna, raccontando. Ma in tanti piccoli paesi magari c'era solo un negozietto che aveva di tutto, però un po' di alimentari, un po' di giornali, un po' di detersivi, insomma lo stretto necessario per vivere in posti piccoli. Ecco, per esempio questo qui in provincia, nella frazione di Longarone, ha chiuso perché l'unico alimentari non aveva la forza di adeguarsi alla burocrazia, al registratore di cassa da collegare all'agenzia delle entrate, che per carità è previsto dalla legge, cioè non è che, e quindi hanno deciso questi due. Ma io adesso, quando la situazione non è drammatica dal punto di vista economico, cioè si trovano altri modi per vivere, può anche essere una scelta apprezzabile, no? Che cosa? Mollare. Mollare e barricarsi, lasciar perdere, non è detto tu qua, dici quando mollare, intanto vivi qui a Milano dove scendi e hai tutti i servizi a portata di mano. Vai a vivere, come ci dice l'ascoltatore, nella frazione di Calco, appunto, dove non c'è un alimentare, non c'è l'ambulatorio medico, dicendo il municipio a 5 chilometri. Ma io sto dicendo proprio questo, che se dal punto di vista economico ce la si fa, si può mollare, lasciar perdere, andare in un posto più comodo. Ecco. Comodo, senza banda ma larga, non solo poi rispetto a questo, in generale mollare, lasciar perdere, io non sono di quelli che dicono non mollare mai, tieni, no, a volte è proprio bello abbandonare. Abbandonati, no. Abbandonati agli eventi. Guarda che c'è un articolo che ho tenuto per te, secondo me su questo articolo sarai d'accordo, ma dopo il traffico c'è anche un altro messaggio che dice mandiamo Manera in Libia, perché qualcuno ha detto di andare a combattere. Io non ho fatto nemmeno il militare. Neanch'io, perché due fratelli l'hanno fatto e quindi andiamo noi in Libia, pensa tu che non l'hanno fatto il militare. Io non l'ho fatto, però e sono giustificato. Non l'ho fatto perché ho rotto la milza e senza milza lo splenectomizzato non può fare il militare. Ecco, vabbè. Traffico. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo, alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. 1. Nessuno. 100 Milan. Caro Milan, ci sono tutte le prospettive per un ottimo 2020 e 2021. Bravo questo, come imitatore. Vai! L'unica gioia dell'essere in auto oggi a causa dello sciopero di Trenord è il poter ascoltare Alessandro Milan. Ti prego, già che ci siamo, dimmi quali sono le motivazioni di questo sciopero. Saranno per la pace nel mondo? Ah, non lo so, è una bella sfida Lucchetti. Sfida Lucchetti, sciopero Trenord per la nostra ascoltatrice cara che ascoltiamo. Ma anche quindi noi. Quindi c'è gente piacere che va a lavorare questi giorni? No, perché guardavo su Instagram. Stai scherzando? No, va. Adesso ti spiego il motivo, perché guardando su Instagram vedi le foto di tutte queste belle ragazze che sono ancora in vacanza. Sì. Quindi mi sono fatto l'idea che le belle donne, ragazze, sono sempre allora, in vacanza all'estero, gli altri lavorano. Ti svelerò questa cosa che ho scoperto dalla mia amica in Fingarda cinese, d'altronde Jessica. Un giorno, allora, Jessica ha lavorato tutte queste vacanze nel suo negozio, ha tenuto aperto, io ero molto contenta. Facciamo una pubblicità sana, lo spazio Nolo 43 in Viale Monza 43, è giusto andar lì, è la mia seconda casa. E, però se tu vedevi su Facebook metteva già la foto uno che è la seconda casa in un bar. Non è un bar, non è un bar, non è, e non è il bar Jimmy. E non è, con tutto il rispetto, è la mia una seconda, boutique, sì, è una boutique dove farò dei grandi alcolici soprattutto. Vabbè, è una boutique. Non è un bel esempio che stai dando a Radio 24. È un centro culturale, la mia boutique, seconda casa e è un bar. E bar. Però se tu guardavi Facebook Morito! Adesso non mi fa parlare, io lo so. Se tu guardavi e scrutavi il suo Facebook, diceva: oh, che meraviglia, oggi sono a Madesimo sui campi da sci. E tu entravi dicendo: Jessica, ma come vai? Non sei a Madesimo, sei qua. E lo so, ma mi piace far credere alle persone che sono a Madesimo, così le persone credono che io sia in giro, guarda, sotto il sole. Invece era lì a fare caffè e a vendere le sue mercanzie da boutique. Vabbè. Vabbè, capisci? Quindi non è detto che siano in vacanza queste persone. Mosco Mule! Ieri un altro eletto del Movimento 5 Stelle ha lasciato il Movimento per approdare al gruppo misto. Il gruppo misto mi ha sempre affascinato. Un politico, per esempio, non va più d'accordo con la linea del suo partito, non c'è problema. Può andarsene e confluire nel gruppo misto, dove comunque trova accoglienza, anche se ci sono persone che la pensano in modo diverso da lui o da lei. Questa, tra tutte le storture che eventualmente ci possono essere nel nostro sistema, è invece una caratteristica meravigliosa della nostra organizzazione parlamentare e penso che andrebbe esportata anche in altri settori della vita. Pensate che bello se appunto ci fosse un gruppo misto anche per noi che parlamentari non siamo e si potesse esportare anche in altri momenti della nostra vita. Per esempio, non vai più d'accordo con tua moglie o con tuo marito, non c'è bisogno di andarsene in solitudine e ricominciare da capo una vita piena di incognite, tra l'altro spesso senza il supporto psicologico che sarebbe necessario. Ci potrebbe invece essere il gruppo misto dei separati, una specie di comune dove si vive insieme, non ci si sente soli e magari possono nascere anche nuove storie, nuove avventure. Ormai la nostra storia è finita, russi troppo, dice lei. Non ti sopporto più, ti lamenti troppo che russo troppo, dice lui. Vado nel gruppo misto, una specie di comune dove ridare un senso alla vita. Pensate che serate meravigliose, gruppo, quale aiuto reciproco si potrebbe avere. E anche i bimbi potrebbero avere altri bimbi con cui giocare quando vanno a trovare i genitori nel gruppo misto. E non solo padri e madri separate, tutti insieme, uomini e donne. La separazione non sarebbe più un dramma, come spesso è, ma un'opportunità, ripartire dal gruppo misto, anche nel lavoro. Hai perso il tuo lavoro a 50 anni e non sai come cavartela da solo? Quando vai a fare un colloquio ti guardano male e nessuno è disposto a darti una nuova possibilità? Non c'è problema, vado nel gruppo misto, una specie di cooperativa dove ognuno mette a disposizione le proprie competenze e poi ci si suddivide i proventi. Oppure ancora, la mia squadra del cuore, il Milan, per esempio, da troppi anni non vince più nulla e io mi sto disamorando. Non c'è problema, aderisco al gruppo misto dei tifosi. Napoletani delusi, milanisti in crisi, romanisti perplessi. Si sta lì, si guarda le partite senza tifare, in attesa di una nuova squadra del cuore, in silenzio, riflettendo a quale fede calcistica aderire successivamente. E poi, visto che in questi nostri tempi le certezze crollano una dopo l'altra, come pere mature, io farei anche il gruppo misto dei dubbiosi. Quelli che non avendo più certezze hanno dubbi su tutto e passano il tempo a elencare le proprie incertezze uno all'altro. Il gruppo misto dei dubbiosi sarebbe forse un gruppo che non procede su nulla, perché sono dubbiosi, ma discute su tutti i temi della vita, magari con una piccola sovvenzione statale, perché altrimenti muoiono di fame. Però per dire, io al gruppo misto dei dubbiosi aderirei. Per la verità aderirei a qualsiasi gruppo misto, perché io in fondo non mi so riconoscere in nessuna disciplina ferrea, in nessun gruppo, in nessun dogma, e dopo un po' mi viene voglia di scappare, di andare via. Ma il rischio di questi tempi è la solitudine. Invece in un bel gruppo misto mi sentirei meno solo e soprattutto meno diverso da quelli che sanno sempre dove andare e cosa fare. Il gruppo misto è l'essenza della vita e mi manca molto. L'unico problema è che al momento puoi farne parte solo se sei parlamentare. mi sa che alle prossime elezioni mi candido e poi, appena eletto, saluto il mio partito e vado lì, nel gruppo misto, dove finalmente potrò trovare una moderata, mista felicità. Bravo Leonardo, guarda che tra l'altro ne parleremo nella seconda ora, oltre a parlare di Australia e gli incendi, avremo due ospiti collegati dall'Australia, parleremo anche con Maurizio Bianconi di questo, ma dobbiamo una risposta alla cara ascoltatrice che grazie allo sciopero di Trenord oggi ci ascolta. Perché lo sciopero Trenord? La sfida Luchetti è vinta, insomma, un po' con lentezza, però la risposta è giusta, però un po' lenta. Lo sciopero oggi è stato proclamato dal sindacato Orsa. È una lunga rivendicazione sindacale di rinnovi contrattuali, quindi i dipendenti legati a questo sindacato vogliono... Il sindacato è il presidente. Sì. Sentiamo cosa ne pensa il presidente del sindacato Orsa. Salve ragazzi, oggi abbiamo scioperato per un motivo molto serio. Va bene, è tutto vero e succede sulla radio di Confindustria, signore. Va bene. Poi devo sottoporti questo articolo. Avevo detto che avevo un articolo per te, guarda qua. Durante le feste natalizie saltano più coppie che tappi. È un po' un articolo che conferma la tua teoria, quella, come dire, dell'amore che finisce sempre e comunque. Esatto, ma soprattutto durante le feste. Eri tu che dicevi che questa anch'io convivenza, ho avuto esperienze di questo tipo. Ecco. Verso Natale è facile che le coppie saltino. Secondo me saltano quelle che saltano come tappi, appunto, di spumante o di champagne, quelle che già erano. Devo dire in che crisi. Far saltare la coppia, però, a Natale dà sempre un po' di amarezza in più. Ecco, questo sì. È vero. Magari meglio subito dopo. Insomma, se vi volete lasciare, aspettate il 26. Ma sei d'accordo con questa teoria che saltano quelle che sono già in difficoltà, cioè che le festività che obbligano una convivenza forzata così stretta mettono in crisi le coppie che già, insomma, scricchiolano o scricchiolavano? Eh sì, perché ti rendi conto, soprattutto a Natale, che è tutto basato su quando ti trovi con il resto della famiglia, ci si rende conto che ogni rapporto familiare è basato sulla finzione. Sì. Quindi anche la coppia, che spesso è basata sulla finzione, trova in quel momento l'apice della falsità del rapporto, diciamo così. Mamma mia che dolcezza, pensavo fosse più maniera. Ce la facciamo onorato da Latina, un minuto, poi se il tassista Mauro ha pazienza lo richiamiamo all'inizio della seconda ora. Onorato, buongiorno. Buongiorno, telefono da Latina, sì. Sono un medico, però sono socio CAI da oltre 25 anni e ogni estate da 50 anni faccio trekking su tutte le montagne svizzere, austriache e tedesche, bello, anche fuori. Il problema, dalla mia osservazione, e giustamente il problema che solleva Mauro Corona è perfetto, è da anni che c'è questo spopolamento. Allora, le comunità montane e altre istituzioni dovrebbero copiare, andare a studiare quello che hanno fatto, che fanno in Austria e in Svizzera, di tutela della montagna, infrastrutture, sovvenzioni e quant'altro. Chiediamoci per quale motivo a 2000 metri i proprietari restano tutto l'anno e allevano animali, curano il turismo estivo invernale. È frutto delle politiche, cosa che in Italia purtroppo non c'è. Mi sembra giusto un modo per concludere questa prima ora, ma questo tema lo riaffronteremo. Uno, nessuno, 100 Milan. Ragazzi, non vorrei che il gruppo misto diventasse maggioranza in questo passo, eh. Milan maledetto, al posto di salvare la montagna ti rinchiudi nelle boutique con le cinesi, vergogna! Che coppia, Yogi e Bubu. Era il sindacato Orsa, credo. Poi fossero boutique, ma non è che sono proprio boutique e basta. Sono boutique un po' strane. Ma senti, il bar Jimmy invece, no, smettila, non è no, vero. Ho detto, sono boutique un po' strane. Il bar Jimmy, cosa ha fatto durante le vacanze il tuo amico Jimmy? Io non sono ancora ripassato dal bar Jimmy dopo le vacanze perché avevo questa, la riconoscenza, questo problema intestinale e non volevo poi bere caffè. Poi passare a salutarlo. Ho capito, anche. Ma so che se sono in un bar io poi prendo il caffè. E siccome non voglio prendere caffè in questi giorni evito il bar Jimmy perché è una specie di... Mauro ci chiama da Milano, eccolo, lo ringrazio, mi hanno detto di essere un tassista e lo ringrazio per la pazienza, eccoci Mauro. Grazie, grazie a lei Milan. Niente, prendo lo spunto dal fatto di Via Gola, no? Che Via Gola, sì, sì, la esatto. Vicenda di Milano. Esatto, che qualcuno poi ha chiamato, ha mandato un messaggio dicendo ma... E riferito poi a Napoli, alle ambulanze, ma perché queste cose succedono solo al sud? Sì. Ecco, io invece vorrei ricordare a questo signore che a Milano invece succedono cose come in Via Gola. Sì, dove ricordiamo sono stati assaliti i vigili del fuoco che erano intenti a spegnere un incendio. Ecco, perché poi quando si parla di Roma, Napoli, no? Non ci si ricorda che si pensa che a Milano vada sempre tutto bene, che sia questa grande città, eccetera. Invece a Milano abbiamo i nostri problemi. Certo. E siccome ci para le spalle Roma e Napoli, mettiamola così, e poi nessuno dice, ma mi sembra quasi che manchi il coraggio di dire che cosa a Milano comunque si potrebbe fare di più e meglio. E non lo si dice perché tanto, ma guardi che a Roma si sta peggio, ma a me non me ne frega niente di Roma, mi frega molto di Roma, perché io amo l'Italia, amo il mio paese, amo Roma e amo Napoli, però non è vero che a Milano vada, lei venga a fare un giro di sera, il venerdì sera, in giro per certi quartieri di Milano. Da tassista parcheggi lei, selvaggi, lei gente che fa quello che vuole. No, ma sai qual è il fatto? Che è vero che Milano sicuramente ha i suoi problemi, si è notato negli anni un po' di miglioramento nella città rispetto a 20 anni fa. Poi, forse ecco, è questo. Dal punto di vista degli assalti, è vero, è innegabile che l'emergenza è soprattutto a Napoli, almeno dal punto di vista del numero, la vicenda di Via Gola. Tra l'altro dove c'è un fortino inespugnabile pare di spacciatori, soprattutto nordafricani, questa notizia della questura, e ci sono anche alcuni, come chiamarli, autonomi, anarchici, centri sociali, cioè insomma esponenti del centro sociale che, questo secondo sempre dati della questura, fomentano la situazione. Ecco, si è creata una sorta di fortino appunto dove è difficile penetrare anche per le forze dell'ordine. Però, caro Leonardo, adesso sono anche contento, è la magia della radio, la bellezza della radio, dobbiamo andare a collegarci con dall'altra parte del mondo, Down Under. Davide Schiappapietra, che è un collega giornalista dell'SBS, il servizio pubblico della radio australiana che trasmette anche in italiano. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori, o buonasera qui in Australia. Ecco, buonasera perché lì in Australia siete avanti un bel po', è già sera, che ore sono? Sono le 8 di sera. Le 8 di sera. Allora, i dati e le immagini che hanno fatto il giro del mondo, i numeri sono impressionanti, si parla di incendi che hanno devastato una regione o varie regioni, una zona grande quanto l'Austria, tanto per capire, 8,3 milioni di ettari di foreste bruciate. Però i dati forse Davide ce li puoi dare tu più completi, che sta succedendo in quel continente? Allora, innanzitutto in Italia si è parlato molto degli incendi australiani nelle ultime settimane, lo sto capendo anche dai messaggi che ricevo nel cuore della notte australiana da amici, parenti o persone che non sentivo da anni, pressoché, che mi chiedono insomma qual è la situazione, come sto o meno. Quindi le notizie sono arrivate in massa, per così dire, nelle ultime settimane, ma l'emergenza incendi qui è iniziata già verso la metà, fine di settembre, e abbiamo avuto già dei in certe aree dell'Australia a novembre si parlava già di emergenza. Cosa sta succedendo? Innanzitutto le zone che sono più colpite da questi incendi, che come avete detto voi insomma si estendono per aree che sono quasi inimmaginabili, stiamo avvicinandoci ai 10 milioni di ettari, quasi l'estensione dell'Inghilterra, quindi è un qualcosa di incredibile. Nel solo stato del New South Wales l'estensione degli incendi è pari all'area coperta da Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta messe insieme. Quindi questo ci dà un'idea. Si tratta di incendi, come ho detto, che sono iniziati verso settembre, hanno interessato inizialmente la zona nord dello stato del New South Wales. Il New South Wales, o come viene spesso tradotto sui media italiani, Nuovo Galles del Sud, è lo stato la cui capitale è Sydney, si trova sulla costa sud-est dell'Australia, costa che poi prosegue a sud nello stato del Victoria, dove invece si trova la città di Melbourne. Si tratta degli stati più popolosi d'Australia, quasi metà della popolazione d'Australia vive in questi stati, ed è proprio qui che si stanno concentrando gli incendi più devastanti. Ecco, ma Davide, esatto, sì. Facci capire come sono iniziati, perché adesso si parla anche, per me incredibile, di 180 persone denunciate perché piromani volontari, una cosa che è indescrivibile. Però come sono iniziati tutti questi incendi? Allora, innanzitutto questi numeri dei 180 persone sono in realtà dei numeri che vanno letti un po' meglio. Si tratta di 180 denunce, alcune delle quali sono state fatte semplicemente nei confronti di contadini che non hanno rispettato pienamente il divieto di accendere fuochi, oppure per persone che sono state viste buttare una sigaretta. In realtà quando guardiamo ai piromani i numeri sono più ridotti, esistono comunque questi, ma si tratta di numeri più ridotti. Detto questo, all'inizio della stagione incendi io ho parlato con un esperto, un arsonist profiler dell'Università RMIT di Melbourne, che mi ha spiegato che statisticamente l'80% degli incendi in Australia sono causati dall'azione dell'uomo, quindi soltanto il 20% sono causati da cause naturali. Ma volontari, cioè volontari nel senso di piromani, oppure anche, non so, bruciare sterpaglie, recuperare terra per l'agricoltura? Di questo 80% la metà si tratta di involontari, per cui si tratta per esempio di bruciare le sterpaglie, si tratta di azioni, come detto, involontarie, il falò o quant'altro. La metà però, circa il 40% degli incendi, sono causati da azioni deliberate, che possono essere sia azioni di piromani, ma anche in alcuni casi azioni per coprire altri crimini. Per esempio c'era il caso eclatante di un uomo che aveva dato fuoco alla sua piantagione di marijuana perché insomma per non essere controllato, che potesse essere scoperto, e poi il fuoco è andato fuori controllo. No, ma è davvero la situazione però è davvero fuori controllo, cioè ci sono, a parte che ci sono stati già 25 vittime. Ecco, il numero degli animali è stata confermata nelle ultime ore. Ah, ecco, il numero degli animali, poi addirittura il WWF ha parlato di 1 miliardo. Io non so come questa stima sia possibile, però è incredibile 1 miliardo se fosse confermato. Ho parlato con un esperto della University of Sydney che ha detto che il calcolo viene fatto sulla densità abitativa di animali nelle zone, in questo caso del New South Wales, quindi guardiamo solo al New South Wales. Il New South Wales si calcola, secondo appunto questo tipo di metrica, che quasi 500 milioni di animali siano morti, ma questo numero, e questa è la cosa eclatante, considera soltanto i mammiferi, i marsupiali, i volatili e quant'altro, non considera tutta un'altra serie di specie che vanno dagli invertebrati fino agli anfibi e agli insetti. Quando diciamo insetti, insomma, diciamo vabbè, insomma, le mosche, le zanzare danno fastidio, quindi non ci interessa. In realtà sono importantissimi per l'ecosistema, sono parte della catena alimentare per, voglio dire, animali, animali più grandi, fino ad arrivare a noi in qualche modo, e oltretutto no, ma è chiaro che una situazione del genere come si risolve? Cioè sembra, a parte che so che ci sono state donazioni anche di grandi star, la pop star americana Pink ha donato $500,000, ma al di là di questo, cioè una situazione così fuori dal controllo. Ripeto, una regione, una nazione come l'Inghilterra, immaginate, in fiamme, a macchia di leopardo, come si risolve? Tutto la speranza sono le piogge torrenziali, che però non arrivano. Noi abbiamo avuto qualche giorno di tregua negli ultimi giorni, e anche alcune piogge che sono state benedette, ci sono dei video online dei vigili del fuoco che danzano nella pioggia, ma queste piogge sono completamente irrilevanti, si tratta di pochi millimetri di pioggia, spesso e volentieri nelle aree dove i fuochi bruciano. Tra l'altro, questa pioggia non arriva neanche al suolo. Perché è per il calore che c'è, infatti. Evapora. Come si fermano? È questo il problema. Non si sa, sicuramente nei giorni di tregua i vigili del fuoco e adesso anche le forze armate stanno mettendo in atto delle azioni di contenimento in qualche modo, quindi fare delle bruciature strategiche in alcune zone, creare delle barriere, distruggere per così dire il combustibile o spostarlo e quant'altro. Il problema è che la natura dei fuochi australiani non permette di controllarli, proprio perché, per esempio, molti degli alberi come quelli di eucalipto non bruciano completamente, soltanto la corteccia brucia di questi alberi. Corteccia che poi viene mossa dal vento, e qui abbiamo delle situazioni veramente complesse, i venti dell'ovest che arrivano dal deserto, insomma, soffiano con intensità. Quello che succede è che qui questi tizzoni ardenti riescono a superare le linee di contenimento e nuovi fuochi si sviluppano dietro le linee di difesa. Allora, Davide, io ti fermo un attimo, devo dare le informazioni sul traffico, ti chiedo ancora di stare qualche minuto con noi, ripeto, siamo in collegamento con Davide Schiappapietra da Sydney, è collega della SBS Special Broadcasting Service Australia, è servizio pubblico australiano che trasmette anche l'italiano, perché ancora un paio di domande abbiamo tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, eccoci qua. Davide, se abbiamo capito bene, tutta praticamente la costa orientale dell'Australia, ed è lunga, e quindi non solo Sydney, Melbourne al sud, ma anche fino a Brisbane al nord, è coinvolta. Poi anche però le zone sotto Darwin, che sono molto di foreste, anche a Perth, quindi dall'altra parte, nella zona occidentale. Ecco, è una situazione incredibile. La popolazione cosa rischia? Abbiamo visto anche immagini di evacuazione dalla spiaggia. Davvero c'è il rischio materiale anche per i centri abitati? Allora, ci sono due livelli di rischio. Il primo livello è quello immediato, che noi stiamo vedendo. Le vittime, i dispersi, ma soprattutto le vite spezzate in qualche modo, mi si perdoni se uso questo cliché. Oltre 2000 abitazioni sono state distrutte e molti di più sono stati gli edifici distrutti, quindi si tratta di un danno materiale molto difficile, appunto, poi da superare. Intere economie basate sul turismo oppure sull'industria agroalimentare sono in ginocchio, non soltanto per questa stagione, ovviamente, durante l'emergenza, ma per gli anni a venire, chissà se verranno, appunto, recuperati i passi persi in questo periodo. Le zone, l'Australia è un territorio molto vasto, quindi le comunità non sono di dimensioni enormi e non sono vicine come per esempio in Italia, dove c'è una densità abitativa diversa. Sì. Detto questo, ci sono i rischi per le comunità isolate, ma ci sono altri rischi e sono quelli per la salute degli australiani. Io per esempio vivo a Sydney, nel centro della città. Gli incendi non arriveranno dove mi trovo io, però Sydney si trova ad essere ricoperta da una coltre di fumo, sì, densissima, una nebbia che era la nebbia, io sono di Daro, originario, quella nebbia che mi ricordo durante la mia infanzia, che forse non c'è più ancora, se non che è una nebbia che odora di arrosto, odora di barbecue. È stato calcolato che Sydney è stata per intere settimane la città più inquinata del mondo, più inquinata di Calcutta. Infatti, sì. Sì. Queste per esempio sono conseguenze che chissà, forse si riverberanno nel futuro. Poi anch'io ho letto di questo inquinamento. Diossina, no? Sì, ho letto di questo inquinamento terribile derivante dai fuochi. Immaginare, io ho fatto il viaggio di nozze lì da quelle parti, immaginare quel cielo blu, insomma, come ce lo stai descrivendo, esatto, tu, è impressionante. Questo è l'agosto dell'Australia, sì. Questo è il periodo fra Natale e il 26 di gennaio, Australia Day, è il periodo in cui le persone vanno in vacanza, le scuole, chiaro, sono chiuse, i turisti, sì, perché lì è piena estate. È la piena estate, assolutamente, c'è questo livello. Il problema è che sta anche avendo degli effetti sulla psiche degli australiani, e se posso utilizzare questo tema, ormai sono 3 mesi che noi parliamo solo ed esclusivamente di incendi, o quasi. L'opinione pubblica è estremamente polarizzata, sui media, sui social media, nelle conversazioni di tutti i giorni. Il tema cambiamenti climatici è all'ordine del giorno e in molte parti d'Australia si è identificato come colpevole o capro espiatorio un uomo che è il primo ministro conservatore, Scott Morrison, che si è reso protagonista oltretutto di un fatto abbastanza curioso. Non so se in Italia se n'è parlato, ma nella settimana precedente a Natale sono iniziate a tirare voci secondo le quali il primo ministro non fosse in Australia, si fosse recato all'estero in vacanza. Voci non confermate inizialmente, proprio durante l'emergenza assoluta. Dopo varie smentite o mezze smentite è stato confermato che si trovasse in una in una località segreta, sì. È stato confermato che fosse una vacanza e poi grazie a dei turisti che l'hanno incontrato sulla spiaggia, insomma, si è saputo che era alle Hawaii con la famiglia. Sì, questo no. Ma politicamente è chiaro che poi ognuno anche qui in diretta ha le soluzioni, c'è chi dice ma non si può arare il terreno con i trattori nel perimetro dell'incendio, credo che la situazione sia un po' più degenerata, o non si può arrivare all'induzione chimica della pioggia, ognuno cerca, cioè, il dato di fatto è che se avessimo la soluzione tutti la proporremmo. È una situazione complicata. Noi Davide, nel ringraziarti, se possibile nei prossimi giorni, se ce lo consentirai, ti richiameremo. Davide Schiappapietra, ripeto, giornalista dell'SBS in Australia, grazie per essere stato qui. Allora, sono le 10:24 minuti. Beh, davvero impressionante questa cosa dell'Australia. Beh, tre mesi poi, come diceva, producono anche effetti psicologici, no, sulle persone. Ma non solo di quelle che hanno avuto danni, peraltro. Poi l'Australia, per carità, è grande, è immensa, ma pensare che un'intera zona dell'Australia, grande come l'Inghilterra, stia bruciando in questo momento, ovviamente non tutta concentrata ma a macchia di leopardo, è impressionante. Però noi abbiamo chiamato l'avvocato. Io non posso iniziare il 2020 senza sentire la voce di Maurizio Bianconi. Maurizio, da Forte dei Marmi. Buongiorno. Da Forte dei Marmi, sì, vabbè, da Forte, non so, da Forte dei Marmi? No, oggi sono a Firenze, ma va bene lo stesso. Vabbè, però diciamo avrei passato le vacanze. Ci sto per andare. Alla prima, Leonardo Manera qui ha fatto uno straordinario pezzo sul voltagabbanismo, non so, possiamo chiamarlo no, così? No, non è vero, no. Invece sull'apprezzare il gruppo misto, nel senso che è un luogo di conforto il gruppo misto. Secondo me ci vorrebbe anche nella vita il gruppo misto, che invece è un privilegio dei parlamentari poter confluire nel gruppo misto. Il gruppo misto come... Sono tutti luoghi comuni sui quali I satirici fanno il loro mestiere e la gente si stende a pelle di leopardo. Certo. In realtà talvolta le cose stanno come dite voi, talalta no. Bisogna capire che c'è sempre un rapporto bilaterale fra il partito che ti ha eletto e il deputato o il senatore o il consigliere comunale. Il partito fa delle promesse e prende delle posizioni ci quali uno impiega anche la sua faccia. Se poi il partito volta gabbana lui, chi se ne va rimane nel suo posto. Sì, però è anche vero. Monte di scilipoti. Sì. Ecco, no, è anche vero che succede a volte, casualmente, attorno a dei periodi dell'anno in cui si inizia a parlare di elezioni, in cui si. No, quelli sono altri movimenti tellurici di diversa natura. Per esempio. Alla scorsa, quando io ho smesso, praticamente c'era un fuggi verso la Lega, perché tutti capivano che le parti affondavano, invece la Lega cresceva. E io, come tu mi dai atto, non ho fatto e ho detto che non avrei fatto, mentre altri l'hanno fatta. Sì. Oppure un fuggi verso il Partito Democratico, quando si vede che la sinistra estrema, chiamiamola così, non funziona, o il dissolvimento dell'Italia dei Valori. Ci sono. Oppure le invenzioni dell'ultimo minuto di compagini per essere rieletti. C'è invece il paragone con tutte le posti che ha cambiato, stavolta ha ragione dal suo punto di vista. Sì. Cioè io sono andato in un certo modo. E questi fanno. Ma infatti adesso c'è il Movimento 5 Stelle, compagine che ti è molto amica, sappiamo. Non mi sono particolarmente antipatici. Non sono all'altezza della situazione. In Parlamento battagliavi con tanto di. Battagliavo sul principio che chi porta la ghigliottina in piazza prima o poi ci mette la testa sotto. Quindi non godi in questo momento silenziosamente da parte per questa loro un po' qualche crisi interna? Usando il pantografo hanno fatto la fine dell'uomo qualunque. Usando il pantografo perché... L'uomo qualunque è durato due anni però, usando il pantografo. Quindi ingrandendo di molto la questione o rimpicciolendola a piacere, il concetto è sempre questo. Quando ci sono... i partiti del no, bravissimi a dire no, e quando poi devono costruire ci vuole una classe dirigente, una conoscenza approfondita dei problemi progettuali, progetti comunque che devono avere un minimo di culturalità, sì. E dopo si a proposito di conoscenza dei problemi, no, ma infatti io ho iniziato la trasmissione leggendo, secondo me e attirandomi le critiche degli amici del 5 Stelle, lo straordinario pezzo di Mattia Feltri oggi sulla Stampa, che parla di Di Maio agli esteri, colui che chiamava Ping il presidente Xi Jinping, che disse Augusto Pinochet in Venezuela, e tu mi hai mandato un messaggio, sì, dicendo su Di Maio agli esteri, noi mettiamo Di Maio agli esteri, e poi adesso non vorrei buttare addosso, come dire, che tutto quello che sta succedendo è legato al fatto che noi abbiamo Di Maio agli esteri. No, no, ma Di Maio agli esteri indica un tasso di culturalità della nostra politica, per cui gli esteri sono sempre considerati una cosa, diciamo così, secondaria, con la quale rimediare i problemi italiani. Insomma, ci si manda agli esteri fini quando non si sa dove mandarlo, che non può più fare il vicepresidente del Consiglio, si manda agli esteri D'Alema perché agli interni da noia, si manda agli esteri Di Maio perché qui è impresentabile e lì non rompe le scatole e non fa danni, infatti non fa nulla e quindi fa danno. Però è vero che tutta l'Europa non brilla come politica estera sul Medio Oriente. No, diciamo. Ma questo è il problema dell'Unione Europea, se mi consentite. Noi siamo riusciti a riavverare il vecchio sogno dello zar di portare le truppe nel Mediterraneo, e abbiamo riportato l'impero ottomano in Libia. E qui ci vuole molta bravura per riuscire a fare queste cose. L'Unione Europea non ha una politica estera comune, e non avendo una politica estera comune valgono ancora, diciamo, gli egoismi di paese, cioè la Francia fa la Francia, l'Italia non è capace a fare niente, la Germania fa la Germania, sostanzialmente estranea alla politica mediterranea, e noi facciamo quello che facciamo, non avendo forza d'impatto, non avendo neanche, scusate, gli attributi fra le gambe. Quest'altro invece, che hanno meno problemi, arrivano e prendono. No, ma ricordiamo solo, giusto per capire, che da anni noi con l'ONU, quindi l'Italia, appoggia al Sarraj in Libia e la Francia appoggia Haftar. Cioè, per dire, due paesi, Italia e Francia, che dovrebbero far parte di una politica comune, appoggiano due leader diversi in Libia. Di fronte a questo che vuoi che succeda? Il casino, cioè, insomma. Sì, perché l'Unione Europea non è mai stata un'unione politica, è sempre stata un'unione economica, nel quale ogni paese ha fatto valere l'interesse nazionale sopra l'interesse comunitario. E quindi questi sono i risultati. Ricordatevi, io ero allora nel mezzo alla politica quando fu bombardato Gheddafi dagli italiani. Sì. Io mi precipitai dal capo dei capi, ma che cavolo avete fatto? Capo dei capi? Era Berlusconi allora. Era Berlusconi, come cazzo hai fatto? No, dice, non sono stato io, è stato Frattini, mi disse, giuro Dio. No, dai, non ti ha detto così. È stato sì, così mi disse, io sono amico con Gheddafi, ma loro hanno voluto, e chiamavano gli americani, insomma. T'avrà detto è stato Sarkozy, scusava, no, è stato Frattini. Mattina si scusava, capito? T'avrà detto è stato Sarkozy, no, è stato Frattini. È stato Frattini. Capito, e quindi noi ci siamo fatti mangiare una posizione dominante di quel tipo lì, dell'ENI eccetera, dalla Francia, dagli Stati Uniti, perché era stato Frattini. Manca la coscienza di una politica estera, ancorché Berlusconi un po' di politica estera la proponga. Almeno abbiamo capito chi è responsabile della situazione attuale in Libia. È colpa di Frattini, colpa se la Libia Frattini. Oggi è un gran si casino. Si scherza, ovviamente. Biancone, ti lasciamo a Firenze, sei andato a trovare il tuo amico Renzi, lo so. No, io non sono amico di Renzi, no, io vivo la mia famiglia sta. Io sto a Firenze con loro. Ah, perfetto. E quando posso fuga forse le mani. Firenze, Renzi che tu chiami, ricordo ancora. Sì, va bene, il cazzaro. Io ricordo sempre, poi vi lascio, quando dalla Merlino, dopo non mi ha più chiamato, e disse: guardate, voi non lo conoscete ancora, è un grande cazzaro, all'inizio vi fa ridere ed è simpatico, poi dopo un annetto o due capite che è un truffatore, e dopo capite che può essere anche pericoloso. E lei mi disse: guardi che lei è l'unico che dice questo, perché un 40% italiani l'hanno votato. Sì, perché ancora lo conosco, ma ora se la vedrà lei. Dice, era il primo anno. Esatto. Va bene, noi ti chiamiamo quando vuoi, dobbiamo andare alla borsa però adesso, caro Leonardo, ringraziamo Maurizio Bianconi. Io pensavo fosse colpa di Mauro Meazzi, invece colpa di Frattini. Così, borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono arrivate. La performance è solo l'inizio. Goditi una nuova esperienza di guida. Lasciati avvolgere dall'eleganza dei nuovi interni. Conquistare dal nuovo infotainment con schermo multitouch. E stupire dai sistemi di guida autonoma di livello 2. Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Scoprile nell'allestimento veloce Launch Edition. In tutte le concessionarie Alfa Romeo. Fino al 31 gennaio. Uno, nessuno, 100 Milan. Potremmo fare a questo punto un appello pubblico, caro Leonardo Manera, visto che durante la pubblicità passeggiava qui tenendosi una mano su un rene, io oserei dire così. Un po' più in basso del rene, perché il rene è un po' più in alto. Un po' più in basso del rene. E poi borbottava anche, e mentre borbottava... ha dichiarato: forse è il caso di... Adesso non so se vuoi finire tu la frase, perché forse è il caso di fare un appello pubblico a questo punto. Cari ascoltatori, sentite bene. Siccome io abito da solo, tranne quando c'è mio figlio con me, ma non c'è sempre, ha detto: forse è il caso di cercare una badante. Una badante che... Una badante per Manera. Ecco, secondo me 52 anni è l'età giusta per cominciare a cercare una badante. Una badante per Manera. Attenzione, potrebbe essere la nuova campagna di Uno Nessuno 100.000. Ovviamente si cercano badanti che poi si possono pagare con un aperitivo al bar Jimmy. No, pagate regolarmente, badanti e anche la prospettiva di lavoro. Come la vorresti? Vediamo, attenzione, l'annuncio. Proviamo a vedere. Intanto, italiana, sei sovranista, straniera, non importa, di qualsiasi nazionalità, di qualche nazionalità specifica. Che caratteristiche deve avere, che qualità? Prego. Non, tu so già dove andare a parare, ma invece non è così. Non cerco, una donna, una badante con la quale avere dei rapporti. Io veramente non ho detto prezzolati nulla e pagamenti. E tu hai la coda di paglia. Anzi, io non sono neanche più interessato al sesso. Quindi, proprio una badante che venga e si prenda cura di me, così, della mia età, che ormai è superata i 50. Va bene qualsiasi nazionalità, purché capisca bene l'italiano, e con la quale poter parlare lì sul divano in silenzio. Come faceva Schopenhauer. No, come Schopenhauer? Schopenhauer ha finito la sua vita così. Si è ritirato in un paese, non c'era ovviamente la televisione allora. E tu era vorresti? Da solo, aveva la badante e un cane. E Schopenhauer la sera si metteva lì con la badante sul divano e parlavano. E tu vorresti un po' finire? No, ma prego, dai. Quindi, di qualsiasi nazionalità, basta che parli bene l'italiano. Sì, ma qual è la cosa che fa la caratteristica, la differenza nelle badanti? Non lo so. Ci sono quelle che fingono di ascoltarti e dicono: sì, va bene, dai, che usciamo, facciamo cose, dai, andiamo così. Facciamo cose? Cos'è? Facciamo cose, usciamo, camminiamo. Sì, va bene, nonno, perché ti chiamano sempre nonno le badanti. Nonno, andiamo. Anche a 52 anni a te, nonno, tu sei pronto a essere chiamato nonno? Sì. Ecco, la cosa che fa la differenza le badanti è la badante che ti ascolta veramente, oppure quella che dice: sì, va bene, andiamo a fare giro. Ecco, io cerco una badante di qualsiasi nazionalità che però ti mi creda, ascolta. ti creda veramente, ti ascolti. Mi ascolti con un po' di trasporto. Oserei dire, guarda qua, oltre che ascoltarti deve sentirti, ti piace. Bravo. Questa cosa. Deve ascoltare ma anche sentirti. Quindi se c'è qualche badante che ha queste caratteristiche, mi contatti qui a Radio 24. Va bene. Finirò come Schopenhauer. Sì. è a tempo pieno, deve essere giorno, notte. Sì, perché prima hai detto metti che di notte poi mi succeda qualcosa. Sì, questi giorni poi che non sto bene ti vengono questi pensieri, no? Quindi sì, no, ma a tempo pieno poi può avere come tutte le badanti un po' un'ora libera ogni tanto. Può avere una famiglia sua e avere un'ora libera. A furia di dir bugie ormai non gli crede più nessuno, neanche le badanti. Quando arriva un ascoltatore pensa che privilegio, la badante di Schopenhauer, effettivamente. Il titolo anche bellissimo di un libro, La badante di Schopenhauer. No, il mio ultimo spettacolo si chiamerà Capodanno di una badante, ho già deciso. E l'ultimo spettacolo sarà quando quello. Sarà? A breve. E poi? E poi basta, poi chiuderò. Però è un bel titolo, Capodanno di una badante, perché è già evocativo. Ti racconta di queste due persone, l'uomo che ha bisogno della badante, la badante, e l'uomo in questo spettacolo avrà una badante giovane, il protagonista, e cercherà di riavere la vita che ormai è passata. Ah, ecco, vedi che alla fine lì si è... No, non c'entra il sesso. Mamma mia, che macigno, ragazzi. E Capodanno? Capodanno, perché fare il capodanno insieme a una badante e per la badante farlo insieme all'assistito è il giorno così, simbolo della mestizia, dell'amarezza. È inutile negarlo. Eccolo lì. Vabbè. Ci dicono 52 anni una badante, ma come sei messo? Ragazzi. Dite a Manera che io sono la sua badante perfetta e che a mia volta ho bisogno di un badante con le stesse caratteristiche. No, non funziona così, cioè non è un... Diteglielo per favore, io glielo ho detto, però non cerca una relazione in cui ognuno ha bisogno del badante. Mi candido, Lidia da Bergamo. Lidia, Lidia è un bel nome. Ecco. Va se bene. Se chiamassi Leonarda ti sposerei subito. Dobbiamo metterci d'accordo per l'aspetto economico. Sì, va bene, prendi già le candidature. Sembrano i polacchi Kripstak e Petrektek, effettivamente. Sembra un po' così. Va bene, dai. Sentirei Paolo, che ci chiama dalla provincia di Firenze. Buongiorno, Paolo. Sì, buongiorno Milano, buongiorno Manera e buongiorno alla sua Marissa, che condivido insomma per molti motivi. Volevo soltanto fare questa puntualizzazione, magari avere conferma anche da voi. Mi pare di aver letto proprio ieri che il governo australiano avrebbe respinto il rapporto ONU sul clima, l'IPCC, mi pare che si chiami, per l'eliminazione graduale delle centrali a carbone nel tempo, sì, un tempo dato, in alcuni anni. Non so se il governo australiano avesse mai controfirmato precedentemente oppure non l'avesse mai fatto, però mi pare, volevo semplicemente sottolineare questa contraddizione, visto che si parla di cambiamenti ambientali. Non so se naturalmente il carbone, l'emissione di carbone nell'atmosfera possa avere un rapporto diretto con gli incendi, però insomma, in questo caso visto dal punto di vista ambientale, sì, vabbè, cioè sono due cose, due settori diversi. Ascoltato prima il collega dall'Australia dire che l'80% 80 incendi su 100 sono volontari, cioè volontari nel senso sono creati dall'uomo, magari non volutamente, nel senso che uno prova a incendiare delle sterpaglie, prova a iniziare e poi la situazione degenera. A me capitò una cosa simile. 8 su 10 sono legati all'azione umana, non alle politiche industriali. A me capitò una cosa simile da bambino e me la ricordo ancora, perché ero con mio padre in collina. È vero, non sto scherzando, ricordami così. Ma guarda un po', io non posso dire niente che questo si mette a ridere. Ma porca miseria. Ma stavo ridendo per percorsi mentali miei, lascia è un ricordo che ogni tanto, ancora adesso me lo ricordo come un episodio con mio padre che aveva un pezzo di terreno in collina. Mio padre, chiamate Anacleto intanto, prego, vai, dai. A un certo punto abbiamo cominciato a bruciare degli sterpi e la situazione ci è sfuggita di mano, e ricordo ancora che aveva cominciato a bruciare gran parte del terreno e io mi sono spaventato così tanto che ancora a distanza di anni è un sogno che ogni tanto faccio. c'è la prescrizione per questo tipo di reati? Puoi verificare una sfida, Lucchetti. Incendio volontario di sterpaglie, reato. Incendio procurato a un campo, così altro che badante. Eravamo in una ti località... diamo una bella badante con il manganello e la divisa che ti cura. Eravamo in località Montesei, sopra Salò, vicino a Cerniga. Che anno più o meno? Eh beh, sarà stato il 77. L'anno del celebre incendio. Per favore, puoi andare a controllare. Guarda, Cerniga, incendio 1977. Non è stato un incendio da titolo di giornale, però nei miei ricordi bambino era una situazione in cui c'era sfuggita di mano. Io ricordo mio papà che arrivava in salone con il Corriere della Sera brandendolo, dicendo chi l'è che il disgrazia, guarda qui che incendio, eccetera. Quindi avevo 6 anni, ho questo ricordo nitido, fissato nella mente. Dell'incendio di Cerniga, per favore controlla, cara Miriam Lucchetti, se esiste una prescrizione per questo. Intanto andiamo al traffico. Esplora nuovi mondi e incontra lo straordinario, il sapore delle emozioni per immaginare l'inesplorato. Segui le tue passioni e vivi il futuro cominciando dalle tue vacanze. Con il Telomare Calloni basta sabbia nelle mutande. Elimina quella brutta sensazione di ospite indesiderato nei genitali. Telomare Calloni, vivi il futuro. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo, alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. 1, nessuno, 100 Milan. A Roma Nera non è specificato per le pari opportunità anche per eventualmente badanti uomini. È vero, sei pronto anche a un badante uomo? Ma io preferirei una donna, ma non per altro, perché penso che ci sia più vicinanza umana, più comprensione reciproca. Bah, sono già convinto a metà. Comunque ragazzi, 10:49 minuti, io... La prima, giuro, questa è vera, la prima lettera che ho ricevuto, raccomandata, il 2 gennaio, mi ha scritto l'Agenzia delle Entrate. Con molta gioia ho aperto la posta e vabbè, non dico oltre. È per questo che con piacere invitiamo, è qui, in piedi, si è seduto, ora è tornato con noi, il ragionier Crosta dell'Agenzia delle Entrate. Entrate, buongiorno. Allora, avete visto quante belle novità sono contenute nella manovra? Un colpo a destra, un colpo a sinistra, poi fai la manovra sbagliata, in un attimo vai a sbattere. Comunque, anno nuovo... Tasse nuove. Oh! Si annunciano grandi versamenti nelle nostre casse a partire dalla sugar tax sulle bibite, anche se posticipata. Io ho comprato 100 casse di aranciata, così le rivendo a meno al mercato nero. Le interessa, Milan? Però. Se organizzo una festa mi chiami, non lo dico in giro, ma mi resto anche un po' di chinotto. Potrei. Il chinotto. Potrei denunciare all'Agenzia delle Entrate, sa? Mi è rimasto il chinotto. Ma ora passiamo a voi, cari contribuenti. Siete sicuri di aver dichiarato proprio tutto? Sicuramente, sì. Come sì. Sapete, grazie al redditometro possiamo calcolare quanto guadagnate e in base a quello poi farvi pagare le tasse. Le tasse. Per esempio, possedete una moca. Una moca? Che non ha una moca? Tutti, certo. Gli italiani hanno in casa una moca. Come no? Perché? Perché vi piace svegliarvi con quel bel profumino di caffè, lo capisco, ma voi non vi accontentate del caffè del supermercato. Voi andate in torrefazione a farvi macinare l'arabica più pregiato. Oh, vuole arabica? E il signore a torrefazione vi ha chiesto: vuole provare il caffè Kona coltivato sulle pendici del monte Walalau e del monte Maunalo nel distretto di Kona, nell'isola più grande dell'arcipelago della Hawaii? Sì! Non sapete neanche dove sono le Hawaii, ma sognate già di essere Obama che fa surf con il costume a fiori. La torrefazione è un luogo tentacolare e siccome il panettone artigianale adesso è scontato, ne avete presi 5 e poi qualche torroncino, le gommose a forma di orsetto, le rotelle di liquirizia, la scorza d'arancia ricoperta di fondente. Oh, oh, la scorza d'arancia, la scorza... calorie ingerite 150.000, reddito presunto 800.000 euro. Ma per una bocca. Quello, tasse, tasse, tasse. La scorza d'arancia. Oh, il chinotto. Oh, il chinotto. Adesso sono dei lì, chissà perché. Vedo che lei possiede un sì? bottone, un beh, bottone, sì, più di un bottone, anche più di uno, devo dire, uguale sulla sua camicia ad altri bottoni, certo, e se perde un forza. Bottone cosa fa? Lo cambia, sì, quindi avrà a casa altri bottoni, bottoni di madreperla, bottoni d'oro, bottoni di incenso, bottoni di mirra. Oh, oh, la mirra con la scorza d'arancia, come lo attacca il bottone con il suo kit da cucito che comprende fili di tutti i colori, spilli, gomitoli e naturalmente l'ago, sottile l'ago. Ah, quindi lei possiede un ago e allora sì. possiede anche un... bottone. Pagliaio! Pagliaio, perché l'ago l'avrà trovato nel pagliaio. No, bravo, Mila! Stia lì nella sua enorme fattoria con tutti i suoi animali da pascolo ad attaccare bottoni alle camicie, nel suo grande enorme pagliaio cercare aghi mentre tutti noi siamo qui a lavorare. No. Possiamo quindi dedurre che lei e il suo pagliaio hanno un reddito presunto di 10 milioni di euro, di euro. Per un ago, un bottone. Un pagliaio, bottone di madreperla e di burra, quindi. Quindi continuate a spendere, a spandere, che l'agenzia delle entrate prima o poi arriva! Ma guardi, ma non lo so, se per un ago, per un bottone. Vabbè, insomma, la ringraziamo, ragioniere Crosta, anche di avermi iscritto. Era firmata proprio dal ragioniere Crosta. Crosta la lettera che ho ricevuto. E grazie, grazie molte. Non ne farò, cenere. E... l'importante è sapere che noi prima o poi arriviamo sempre. Questo l'ho capito. Anche se voi pensate di essere tranquilli, perché dite non sono arrivati in tanti anni questi dell'agenzia delle entrate. Possiamo stare tranquilli. No, proprio nel momento in cui voi pensate di averla fatta franca, noi din don, chi è? Il ragionier Crosta. E quando arriva Crosta, cominciate a sudare, aloni di sudore sotto le ascelle, perché vedete quelli... i vostri tasse, vedete i vostri soldini perché che si allontanano, si è tornati belli tranquilli dalle vostre vacanze. Vacanze in montagna, ve la siete spassata, avete bevuto, mangiato, sciato, fatto colazione col pane e Nutella, eh? E siete tornati tutti pronti per ricominciare, no? Perché din don, chi è? Crosta! Ma lei si presenta personalmente, quindi... Certo, Crosta, sono Crosta! E se uno non le apre? Troviamo il modo di entrare, sembra che sia un problema. No, infatti, se non entrate dalla porta, entrate da qualche altro pertugio. Allora, la sfida Lucchetti è vinta, forse. Qui però ci vuole, caro Leonardo Manera, una domanda in più, un interrogatorio breve da fare. Intanto un ascoltatore dice, sì, vicino a San Michele, ricordo, negli anni Ottanta. Esatto, è proprio vicino a San Michele, cioè Serniga e San Michele. E lui se lo ricorda il famoso incendio. Comunque, incendio colposo, prescrizione in 6 anni. Incendio doloso... 12 anni. Vabbè, ora in entrambi i casi saresti 6 in prescrizione. Però quale dei due casi? Sicuramente dobbiamo... colposo. Bah. Tu stavamo bruciando gli sterpi, sì. Ma io ti conosco, tu da anni proprio. Allora, perché bisogna stare attenti al vento quando si bruciano gli sterpi, perché di colpo arriva un refolo di vento che porta via il fuoco. Vediamo un po' che Alfonso da Verona, però a 30 secondi Alfonso, sennò Peter ci incenerisce. Alfonso, cosa vuol dirci? 30 secondi, niente, io vi seguo sempre la mattina mentre che lavoro, sto facendo un motore di un treno, allora poi mi fate morire. Sto capendo che siete, parlavate di badanti, specialmente Manera, una roba favolosa. Ma il discorso è che mi è venuto in mente, dico, ma caspita, sono tutti divorziati qua, com'è la storia? Com'è la storia? Anch'io voglio trovare una badante, ho quasi 60 anni, lui ne ha meno di me, non lo so, fate voi, cercate so. Qualcosa anche a me. Alfonso, che dobbiamo dopo fare? Una vita di matrimonio. Che deve fare? Che ci deve vogliono fare? Badanti comprensive. Ecco. Lui punta la badante perché la badante l'associa a questo, Alfonso. No, Manera no. Dai, ci troviamo domani, solita ora. Domani alle 9, domani mattina alle 9, non alle 10 e mezza!